Alba trascorse 2 giorni a letto, durante i quali lo sciopero degli studenti si dissolse pacificamente. Il ministro dell'Educazione venne rimosso dal suo posto e trasferito al Ministero dell'Agricoltura. Oh, se ha potuto fare il ministro dell'Educazione senza aver terminato gli studi, può benissimo fare il ministro dell'Agricoltura senza aver mai visto in vita sua una mucca intera, commentò il senatore Trueba. Mentre era a letto, Alba poté rivivere le circostanze in cui aveva conosciuto Esteban García. Cercando molto indietro nelle immagini della sua infanzia, ricordò un giovane Bruno, la biblioteca della casa, il caminetto acceso con grandi ciocchi di legno di pino che profumavano l'aria di pomeriggio o di sera, e lei seduta sulle sue ginocchia. Ma quella visione entrava e usciva veloce dalla sua memoria e arrivò a pensare di averla sognata. Il primo ricordo preciso che aveva di lui era posteriore. Sapeva la data esatta perché era stato il giorno che aveva compiuto 14 anni e sua madre l'aveva segnato nell'album nero che sua nonna aveva iniziato quando lei era nata. Per l'occasione si era arricciata i capelli e stava sulla terrazza col cappotto addosso in attesa che arrivasse lo zio Jaime per portarla a comprare il suo regalo. Faceva molto freddo, ma a lei piaceva il giardino d'inverno. Si era alitata sulle mani e aveva sollevato il colletto del cappotto per proteggersi le orecchie. Di lì poteva vedere la finestra della biblioteca dove suo nonno parlava con un uomo. Il vetro era appannato, ma era riuscita a riconoscere la divisa dei carabinieri e si era chiesta che cosa potesse fare suo nonno con uno di loro nel suo studio. L'uomo voltava le spalle alla finestra e stava seduto rigidamente sull'orlo della seggiola, con le spalle rigide e un'aria patetica da soldatino di piombo. Alba era rimasta a guardarli un po' finché non aveva calcolato che suo zio stava per arrivare. Allora era avanzata nel giardino fino a un chiostro semidistrutto, battendosi le mani per riscaldarsi. Aveva tolto le foglie umide che c'erano sulla panca di pietra e si era seduta ad aspettare. Poco dopo Esteban García l'aveva trovata proprio lì, quando era uscito dalla casa e aveva dovuto attraversare il giardino per dirigersi al cancello. Vedendola si era fermato bruscamente, aveva guardato da ogni parte, aveva esitato e poi si era avvicinato. Ti ricordi di me? Aveva chiesto García. No, aveva risposto lei dubbiosa. Sono Esteban García, ci siamo conosciuti alle Tre Marie. Alba aveva sorriso meccanicamente, le faceva venire in mente un brutto ricordo. C'era qualcosa nei suoi occhi che le causava inquietudine, ma non sapeva dire con precisione. García aveva spazzato via le foglie e le si era seduto accanto nel chiosco, così vicino che le loro gambe si toccavano. Questo giardino sembra una foresta, aveva detto respirandole molto vicino. Si era tolto il berretto della divisa. E lei gli aveva visto i capelli molto corti e lisci, pettinati con brillantina. Subito la mano di García si era posata sulla sua spalla. La familiarità del gesto aveva sconcertato la ragazza, che per un momento era rimasta paralizzata, ma subito si era spinta indietro cercando di sottrarsi. La mano del carabiniere le aveva stretto la spalla, infilandole le dita attraverso la grossa stoffa del suo cappotto. Alba aveva sentito che il cuore le batteva all'impazzata e il rossore le aveva coperto le guance. Sei cresciuta, Alba. Sembri quasi una donna, le aveva sussurrato l'uomo all'orecchio. Ho 14 anni, li compio oggi, aveva balbettato. Allora ho un regalo per te, aveva detto Esteban García, sorridendo con la bocca storta. Alba aveva tentato di voltare la faccia, ma lui l'aveva tenuta saldamente con le due mani, costringendola a stargli di fronte. Era stato il primo bacio, aveva sentito una sensazione calda, brutale, la pelle dura e mal rasata che le grattava la faccia, il suo odore di tabacco vecchio e cipolla, la sua violenza. La lingua di García aveva cercato di aprirle le labbra mentre con una mano le schiacciava le guance fino a obbligarla a serrare le mascelle. Lei aveva percepito quella lingua come un mollusco bavoso e tiepido. L'aveva invasa la nausea e le era salito un conato di vomito dallo stomaco, ma aveva tenuto gli occhi aperti, aveva visto la stoffa dura dell'uniforme e sentito le mani feroci che le circondavano il collo e senza smettere di baciarla le sue dita avevano cominciato a premere. Alba aveva creduto di asfissiare, l'aveva spinto con tale violenza da riuscire a scostarsi. García si era allontanato dalla panchina e aveva sorriso con scherno. C'erano macchie rosse sulle sue guance, respirava con agitazione. Ti è piaciuto il mio regalo? Gli aveva riso. Alba l'aveva visto allontanarsi a grandi passi nel giardino e si era seduta a piangere. Si sentiva sporca e umiliata. Dopo era corsa in casa a lavarsi la bocca col sapone e a spazzolarsi i denti come se così avesse potuto togliere la macchia dalla sua memoria. Quando era arrivato suo zio Jaime a prenderla, gli si era aggrappata al collo, aveva affondato la faccia nella sua camicia e gli aveva detto che non voleva alcun regalo perché aveva deciso di farsi monaca. Jaime era scoppiato in una risata profonda che nasceva dalle viscere e che solo lei gli aveva udito in ben poche circostanze perché suo zio era un uomo taciturno. Ti giuro che è vero, mi farò monaca, aveva singhiozzato Alba. Ah, dovresti nascere un'altra volta, aveva replicato Jaime, e inoltre dovresti passare sopra il mio cadavere. Alba non aveva più rivisto Garcia finché non l'ebbe a suo fianco nel distaccamento di polizia dell'università, ma non era mai riuscita a dimenticarlo. Non aveva raccontato a nessuno di quel bacio ripugnante, né dei sogni che aveva poi fatto, nei quali lui appariva come una bestia verde in atto di strangolarla con le sue zampe, di asfissiarla introducendole un tentacolo bavoso in bocca. Ricordando tutto questo, Alba scoprì che l'incubo era rimasto rannicchiato dentro di lei durante tutti quegli anni e che Garcia continuava a essere la bestia che la spiava nell'ombra per saltarle addosso alla prima svolta della vita. Non poteva sapere che questa era una premonizione. A Miguel passarono la delusione e la rabbia che Alba fosse nipote del senatore Trueba. La seconda volta che la vide camminare come un'anima smarrita nelle viuzze vicine al caffè dove si erano conosciuti. Decise che era ingiusto incolpare la nipote per le idee del nonno e ripresero a passeggiare abbracciati. Di lì a poco i baci interminabili che si davano diventarono insufficienti e cominciarono a darsi appuntamenti nella stanza dove Miguel abitava. Era una mediocre pensione per studenti poveri, tenuta da una coppia di età matura con la vocazione allo spionaggio. Scrutavano Alba con malcelata ostilità quando saliva per mano a Miguel nella sua stanza, e per lei era un supplizio vincere la timidezza e affrontare la critica di quegli sguardi che le guastavano la gioia dell'incontro. Pur di evitarli, preferiva altre alternative, ma non accettava neanche l'idea di andare insieme in un albergo, per lo stesso motivo per cui non voleva essere vista nella pensione di Miguel. Sei la peggior borghese che io conosca, rideva Miguel. Talvolta lui riusciva a farsi prestare una moto e scappavano per qualche ora, correndo a una velocità suicida, a cavallo della macchina con le orecchie gelate e il cuore anelante. D'inverno andavano sulle spiagge solitarie, camminavano sulla sabbia bagnata, lasciando orme che l'acqua lambiva, spaventando i gabbiani e respiravano a pieni polmoni l'aria di mare. D'estate preferivano i boschi più fitti, dove potevano ruzzare impunemente una volta elusi i giovani esploratori e gli escursionisti. Ben presto Alba scoprì che il posto più sicuro era la sua stessa casa, perché nel labirinto e nell'abbandono delle stanze posteriori, dove nessuno entrava mai, potevano amarsi senza essere disturbati. Se la servitù sentisse rumori, crederà che siano tornati fantasmi, disse Alba, e gli raccontò del glorioso passato di spiriti visitatori e tavolini volanti della grande casa dell'angolo. La prima volta che lo condusse attraverso la porta posteriore del giardino, aprendosi un varco fra i pruneti e schivando le statue macchiate di muschio e di escrementi di uccelli, il giovane ebbe un sussulto alla vista del triste casamento. Qui ci sono già stato, mormorò, ma non riuscì a ricordare perché quella foresta da incubo e quella lugubre dimora conservavano appena una vaga somiglianza con la luminosa immagine tesaurizzata nella memoria dalla sua infanzia. Gli innamorati provarono a una le stanze abbandonate e finirono per improvvisare un nido per i loro amori furtivi nelle profondità della cantina. Erano molti anni che Alba non ci entrava ed era arrivata al punto da dimenticarne l'esistenza. Ma quando l'aprì e respirò l'inconfondibile odore, sentì di nuovo la magica attrazione di una volta. Usarono le carabattole, le cassette, i libri dello zio Nicolas, i mobili, i tendaggi di altri tempi per arredare una stupefacente camera nuziale. Nel mezzo improvvisarono un letto con diversi materassi che ricoprirono con pezze di velluto tarlato. Dai bauli trassero innumerevoli tesori, fecero lenzuola con vecchie tende di damasco color topazio, scucirono il sontuoso vestito di pizzi Chantilly che aveva indossato Clara il giorno in cui era morto Barrabás, per costruirsi una zanzariera color del tempo che li preservasse dai ragni che tessendo calavano dal tetto. Si facevano luce con candele e non badavano ai piccoli roditori, al freddo e a quel tanfo d'oltretomba. Nel crepuscolo eterno della cantina se ne stavano nudi, sfidando l'umidità e le correnti d'aria. Bevevano vino bianco in coppe di cristallo che Alba aveva sottratto dalla sala da pranzo e facevano un minuzioso inventario dei loro corpi e delle molteplici possibilità del piacere. Giocavano come bambini. Lei faticava a riconoscere in quel giovane innamorato e dolce, che rideva e rozzava in un instancabile baccanale, il rivoluzionario avido di giustizia che imparava in segreto l'uso delle armi da fuoco e le strategie rivoluzionarie. Alba inventava irresistibili trucchi di seduzione e Miguel creava nuovi e meravigliosi modi di amarla. Erano abbacinati dalla forza della loro passione, che era come un sortilegio di sete insaziabile. Non bastavano le ore né le parole per dirsi i più intimi pensieri e i più remoti ricordi, in un ambizioso tentativo di possedersi intimamente sino all'ultimo grado. Alba tralasciò il violoncello, se non per suonarlo nuda sul letto di Topazio, e assisteva alle sue lezioni all'università con un'aria allucinata. Anche Miguel rinviò la sua tesi e le sue riunioni politiche perché di continuo avevano bisogno di stare insieme e approfittavano di ogni minima distrazione degli abitanti della casa per scivolare sino alla cantina. Alba imparò a mentire e a dissimulare. Col pretesto di studiare di notte, lasciò la stanza che spartiva con sua madre dalla morte della nonna e si sistemò in una camera del primo piano che dava sul giardino, per poter aprire la finestra a Miguel e guidarlo, in punta di piedi, attraverso la casa addormentata fino alla tana incantata. Ma non stavano insieme solo di notte. L'impazienza dell'amore era talvolta così intollerabile che Miguel si arrischiava a entrare di giorno, strisciando fra i cespugli come un ladro, fino alla porta della cantina dove lo aspettava Alba col cuore in subbuglio. Si abbracciavano con la disperazione di un addio e sgattaiolavano nel loro rifugio, soffocati dalla complicità. Per la prima volta nella sua vita, Alba sentì il bisogno di essere bella e rimpianse che nessuna delle splendide donne della sua famiglia le avesse lasciato in eredità i suoi attributi e l'unica che l'aveva fatto, la bella Rosa, le aveva dato solo una sfumatura d'alga marina ai suoi capelli e se non era accompagnata da tutto il resto sembrava piuttosto un errore del parrucchiere. Quando Miguel indovinò la sua inquietudine, la portò per mano fino al grande specchio veneziano che ornava un angolo della camera segreta. Tolse la polvere dal vetro incrinato e poi accese tutte le candele che aveva e gliele mise intorno. Lei si rimirò nei mille frammenti dello specchio. La sua pelle illuminata dalle candele aveva il colore irreale delle figure di cera. Miguel cominciò ad accarezzarla e lei vide trasformarsi il suo volto nel caleidoscopio dello specchio e convenne infine che lei era la più bella dell'universo perché aveva potuto vedersi con gli occhi con cui la vedeva Miguel. Quell'orgia interminabile durò più di un anno. Alla fine Miguel terminò la tesi, si laureò e cominciò a cercarsi un lavoro. Quando passò la pregnante urgenza dell'amore insoddisfatto, poterono recuperare un contegno e normalizzare le loro vite. Lei fece uno sforzo per interessarsi di nuovo agli studi e lui si lanciò nuovamente nell'impegno politico perché gli eventi stavano precipitando e il paese era lacerato dalle lotte ideologiche. Miguel affittò un piccolo alloggio vicino al suo posto di lavoro dove si ritrovavano per amarsi, perché durante l'anno che avevano trascorso saltellando nudi per la cantina, avevano contratto entrambi una bronchite cronica che toglieva una buona parte dell'incanto al loro paradiso sotterraneo. Alba aiutò ad arredarlo, mettendo cuscini fatti a mano e manifesti politici dappertutto, e arrivò persino a suggerire che avrebbe potuto andare a vivere con lui, ma su questo punto Miguel era stato inflessibile. Si avvicinano tempi molto brutti, amore mio, spiegò. Non posso tenerti con me perché quando sarà necessario entrerò nella guerriglia. Verrò con te ovunque tu sia, promise lei. Oh, queste cose non le si fa per amore, ma per convinzione politica e tu non ce l'hai, replicò Miguel. Non possiamo permetterci il lusso di accettare dilettanti. Ad Alba questo sembrò brutale e dovettero passare alcuni anni perché potesse capirlo in tutta la sua grandezza. Il senatore Trueba era già in età di ritirarsi, ma l'idea non gli passava neppure per la testa. Leggeva il giornale del giorno, biascicava tra i denti. Le cose erano molto cambiate in quegli anni e sentiva che gli eventi lo trascendevano, perché non aveva pensato di continuare a vivere tanto da doverli affrontare. Era nato quando non esisteva la luce elettrica in città e si era ritrovato a vedere alla televisione un uomo che passeggiava sulla luna. Ma nessun trambusto della sua lunga vita l'aveva preparato ad affrontare la rivoluzione che si stava organizzando nel suo paese, sotto i suoi occhi, e che metteva tutti in agitazione. L'unico a non parlare di quanto stava succedendo era Jaime. Per evitare i litigi con suo padre aveva assunto l'abitudine del silenzio, aveva subito scoperto che gli era più comodo non parlare. Le poche volte che abbandonava la sua laconicità trappista era quando Alba andava a trovarlo nel tunnel dei libri. Sua nipote arrivava in camicia da notte con i capelli bagnati dalla doccia e si sedeva ai piedi del suo letto per raccontargli cose felici, perché, come lei diceva, lui era una calamita che attraeva i problemi altrui e le miserie irrimediabili, ed era necessario che qualcuno lo tenesse al corrente della primavera e dell'amore. Le sue buone intenzioni si dissolvevano dinanzi all'urgenza di discutere con suo zio di tutto quello che la preoccupava. Non erano mai d'accordo. Spartivano gli stessi libri, ma nel momento di analizzare quanto avevano letto, esprimevano opinioni affatto contrastanti. Jaime scherniva le sue idee politiche, i suoi amici barbuti e le rimproverava di essersi innamorata di un terrorista da caffeuccio. Era l'unico in casa a conoscere l'esistenza di Miguel. Dia a quel moccioso che un giorno di questi venga a lavorare con me all'ospedale, così vedremo se gli durerà la voglia di continuare a sprecare il tempo fra volantini e discorsi, diceva ad Alba. È un avvocato, zio, non un medico, replicava lei. Non importa, là abbiamo bisogno di tutti, persino un idraulico ci serve. Jaime era sicuro che i socialisti avrebbero finalmente trionfato dopo tanti anni di lotta. Lo deduceva dal fatto che il popolo aveva preso coscienza dei suoi bisogni e della sua forza. Alba ripeteva le parole di Miguel che solo con la guerra si poteva battere la borghesia. Jaime aveva orrore di qualsiasi forma di estremismo e sosteneva che i guerriglieri si giustificano solo durante la tirannia, quando non c'è altra scelta che battersi con le armi, ma che sono un'aberrazione in un paese dove i cambiamenti si possono ottenere con votazioni popolari. Ah, non è mai successo, zio, non fare l'ingenuo, replicava Alba. Non lasceranno mai vincere i tuoi socialisti. Lei cercava di spiegare il punto di vista di Miguel, che non si poteva aspettare oltre il lento passo della storia, il laborioso processo di educazione e organizzazione del popolo, perché il mondo avanzava a balzi e loro rimanevano indietro, che i mutamenti radicali non avvenivano mai con le buone e senza violenza. La storia lo dimostrava. La discussione si prolungava ed entrambi si smarrivano in un'oratoria confusa che li lasciava sfiniti, accusandosi a vicenda di essere più testardi di muli, ma infine si auguravano la buonanotte con un bacio e restavano tutte e due con la sensazione che l'altro fosse un essere meraviglioso. Un giorno, all'ora di cena, Jaime annunciò che avrebbero vinto i socialisti, ma poiché erano 20 anni che pronosticava la stessa cosa, nessuno gli credette. Se tua madre fosse viva, direbbe che vinceranno quelli di sempre, gli rispose il senatore Trueba sdegnosamente. Jaime sapeva quello che diceva, gliel'aveva detto il candidato. Da molti anni erano amici e Jaime andava spesso a giocare a scacchi con lui la sera. Era lo stesso socialista che era stato candidato alla presidenza della Repubblica 18 anni prima. Jaime l'aveva visto per la prima volta sulle spalle di suo padre quando passava in mezzo a una nuvola di fumo sui treni del trionfo durante le campagne elettorali della sua adolescenza. A quei tempi il candidato era un uomo giovane e robusto, con guance da cane da caccia che gridava discorsi esaltati fra i fischi e i lazzi dei padroni e il silenzio rabbioso dei contadini. Era l'epoca in cui i fratelli Sanchez avevano impiccato all'incrocio delle strade il dirigente socialista ed Esteban Trueba aveva frustato Pedro Terzo García davanti a suo padre per aver ripetuto davanti ai contadini le perturbanti versioni bibliche di padre José Dulce María. La sua amicizia col candidato era nata per caso, una domenica notte in cui l'avevano mandato dall'ospedale a occuparsi di un'emergenza a domicilio. Era giunto all'indirizzo indicato con un'ambulanza di servizio, aveva suonato il campanello e il candidato in persona aveva aperto la porta. Jaime non aveva avuto difficoltà a riconoscerlo perché aveva visto spesso la sua immagine e perché non era cambiato da quando l'aveva visto passare sul treno. Entri, entri, dottore, la stiamo aspettando. Aveva salutato il candidato. L'aveva condotto nella stanza di servizio dove le sue figlie cercavano di aiutare una donna che sembrava stesse asfissiando. Aveva la faccia livida, gli occhi fuori delle orbite, una lingua mostruosamente gonfia che le usciva dalla bocca. Ha mangiato pesce? Gli avevano spiegato. Portate l'ossigeno che si trova nell'ambulanza, aveva detto Jaime mentre preparava un'iniezione. Era rimasto col candidato. Tutte e due seduti sulla sponda del letto finché la donna non aveva ripreso a respirare normalmente ed era riuscita a infilarsi di nuovo la lingua in bocca. Avevano parlato di socialismo e di scacchi e quello era stato l'inizio di una buona amicizia. Jaime si era presentato col cognome di sua madre, che usava sempre, senza pensare che il giorno dopo i servizi di sicurezza del partito avrebbero fornito all'altro l'informazione che era figlio del senatore Trueba, il suo peggiore nemico politico. Il candidato, tuttavia, non vi aveva mai accennato e persino nell'ora della fine, quando entrambi si strinsero la mano per l'ultima volta nel fragore dell'incendio delle pallottole, Jaime si chiedeva se un giorno avrebbe avuto il coraggio di dirgli la verità. La sua lunga esperienza della sconfitta e la sua conoscenza del popolo permisero al candidato di rendersi conto prima di tutti che in quell'occasione avrebbe vinto. Lo disse a Jaime e aggiunse che la consegna era di non divulgare la notizia, affinché la destra si presentasse alle elezioni sicura del trionfo, arrogante e divisa. Jaime aveva replicato che quando anche l'avesse detto a tutti, nessuno gli avrebbe creduto, neppure gli stessi socialisti, e a prova di ciò l'aveva annunciato a suo padre. Jaime continuò a lavorare 14 ore al giorno, comprese le domeniche, senza partecipare alla contesa politica, che stava polarizzando tutte le forze ai due estremi, lasciando al centro solo un gruppo indeciso e volubile che aspettava di vedere il vincitore per votarlo. Non si lasciò provocare da suo padre, che approfittava di tutte le occasioni in cui stavano insieme per prevenirlo sulle manovre del comunismo internazionale e sul caos che avrebbe coinvolto la patria nel caso improbabile che avesse vinto la sinistra. L'unica volta che Jaime perse la pazienza fu quando una mattina trovò la città tappezzata di manifesti truculenti in cui appariva una madre panciuta e desolata che tentava inutilmente di strappare suo figlio a un soldato comunista che lo portava a Mosca. Era la campagna di terrore organizzata dal senatore Trueba e dai suoi correligionari con l'aiuto di esperti stranieri importati appositamente a quel fine. Fu troppo per Jaime. Decise che non poteva vivere sotto lo stesso tetto di suo padre. Chiuse il tunnel, prese la sua roba e se ne andò a dormire all'ospedale. Gli eventi precipitarono negli ultimi mesi prima delle elezioni. Su tutti i muri c'erano i ritratti dei candidati. Gettarono manifestini dall'aria con aeroplani e ricoprirono le strade di un'immondizia stampata che cadeva come neve dal cielo. Le radio urlavano gli slogan politici e vi furono le scommesse più folli tra i sostenitori di ogni schieramento. Di notte, gruppi di giovani partivano all'assalto dei loro nemici ideologici, si organizzavano assembramenti accalcati per sondare la popolarità di ogni partito e ciascuno riempiva la città e ammassava gente nella stessa misura. Alba era euforica, ma Miguel le aveva spiegato che le elezioni erano una buffonata e che chiunque avesse vinto era lo stesso, perché se non era zuppera pan bagnato e la rivoluzione non la si poteva fare dalle urne elettorali, ma col sangue del popolo. L'idea di una rivoluzione pacifica nella democrazia e con piena libertà era un controsenso. Quel povero ragazzo è matto, esclamò Jaime quando Alba glielo raccontò. Vinceremo e dovrà ringoiarsi le sue parole. Fino a quel momento Jaime era riuscito a eludere Miguel. Non voleva conoscerlo. Segrete e inconfessabili gelosie lo tormentavano. Aveva aiutato Alba a nascere, l'aveva tenuta mille volte sulle sue ginocchia. Le aveva insegnato a leggere, le aveva pagato la scuola e festeggiato ogni suo compleanno, si sentiva come suo padre e non poteva evitare l'inquietudine di vederla trasformata in una donna. Aveva notato il cambiamento negli ultimi anni e si ingannava con false argomentazioni, nonostante la sua esperienza nel curare altri esseri umani gli avesse insegnato che solo L'amore può conferire quello splendore a una donna. Dal giorno alla notte aveva visto maturare Alba, abbandonando le forme imprecise dell'adolescenza per sistemarsi nel suo nuovo corpo di donna soddisfatta e calma. Sperava con assurda veemenza che l'amore di sua nipote fosse un sentimento passeggero, perché nell'intimo non voleva accettare che avesse più bisogno di un altro uomo che di lui. Tuttavia, non poté continuare a ignorare Miguel. In quei giorni Alba gli aveva raccontato che sua sorella era malata. «Voglio che parli con Miguel, zio. Lui ti dirà di sua sorella. Lo faresti per me?» chiese Alba. Quando Jaime conobbe Miguel in un piccolo caffè del quartiere, tutta la sua diffidenza non poté impedire che un'ondata di simpatia gli facesse dimenticare il suo antagonismo, perché l'uomo che aveva di fronte, mentre mescolava nervosamente il suo caffè, non era l'estremista petulante e spaccone che si aspettava, bensì un giovane commosso e tremante che, spiegando i sintomi della malattia di sua sorella, lottava contro le lacrime che gli annebbiavano gli occhi. «Portami da lei», disse Jaime. Miguel e Alba lo condussero nel quartiere degli artisti, in pieno centro, a pochi metri dagli edifici moderni di acciaio e vetro. Erano sorte sui fianchi della collina le stipate strade dei pittori, dei ceramisti e degli scultori. Lì avevano costruito le tane, dividendo le antiche case in minuscoli studi. I laboratori degli artigiani si aprivano al cielo attraverso i soffitti di vetro e nei bui porcili sopravvivevano gli artisti in un paradiso di grandezze e di miserie. Nei vicoli giocavano bambini tranquilli, belle donne con lunghe tuniche portavano le loro creature sulle spalle o su un'anca. E gli uomini barbuti, sonnolenti, tediati, guardavano passare la vita seduti agli angoli o sulle soglie delle porte. Si fermarono davanti a una casa in stile francese decorata come una torta di crema con angioletti nei fregi. Salirono per una scala stretta, costruita come uscita di emergenza in caso di incendio e che le numerose suddivisioni dell'edificio avevano trasformato nell'unico accesso. A mano che salivano, la scala si piegava su se stessa e li avvolgeva in penetrante odore di aglio, marijuana e trementina. Miguel si fermò all'ultimo piano, di fronte a una porta pitturata d'arancio, tirò fuori una chiave e aprì. Jaime e Alba credettero di entrare in un'uccelliera. La stanza era rotonda, coronata da un'assurda cupola bizantina e circondata da vetri, da cui la vista poteva spaziare sui tetti della città e sentirsi molto vicina alle nuvole. Le colombe avevano fatto il nido sui davanzali delle finestre e contribuito con i loro escrementi e le loro piume all'ammarezzatura dei vetri. Seduta su di una seggiola, davanti all'unico tavolo, c'era una donna che indossava una vestaglia ornata con un triste drago sfilacciato ricamato sul petto. Jaime ebbe bisogno di qualche secondo per riconoscerla. «Amanda! Amanda!» balbettò. Non l'aveva più rivista da oltre 20 anni. Quando l'amore che entrambi nutrivano per Nicolás era stato più forte di quello che sentivano tra loro. In quel tempo il giovane atletico Bruno, con i capelli imbrillantinati e sempre umidi, che passeggiava leggendo ad alta voce i suoi trattati di medicina, si era trasformato in un uomo leggermente curvo per via dell'abitudine di chinarsi sui letti degli ammalati, con i capelli grigi, un viso grave e lenti spesse dalla montatura metallica, ma nel fondo era la stessa persona. Per riconoscere Amanda, tuttavia, bisognava averla amata molto. Dimostrava più anni di quanti ne poteva avere. Era molto magra, quasi all'osso, la pelle macilenta e giallastra e le mani molto trascurate con le dita macchiate di nicotina. I suoi occhi erano gonfi, senza luce, arrossati, con le pupille dilatate, cosa che le conferiva un aspetto derelitto e terrorizzato. Non vide né Jaime né Alba, ebbe occhi solo per Miguel, fece per alzarsi, inciampò e traballò, e suo fratello le si avvicinò e la sostenne stringendosela contro il petto. «Vi conoscevate?» chiese Miguel stupito. «Sì, molto tempo fa», disse Jaime. Pensò che era inutile parlare del passato e che Miguel e Alba erano troppo giovani per capire la sensazione di perdita irreparabile che provava in quel momento. Con un colpo di spugna si era cancellata l'immagine della zingara che aveva custodito in tutti quegli anni nel suo cuore, unico amore nella solitudine del suo destino. Aiutò Miguel a distendere la donna sul divano che le serviva da letto e le sistemò il guanciale. Amanda si chiuse la vestaglia con la mano, difendendosi debolmente e balbettando incoerenze. Era scossa da tremori convulsi e ansimava come un cane stanco. Alba la osservò, inorridita, e solo quando Amanda fu sdraiata, quieta e con gli occhi chiusi, riconobbe la donna che sorrideva nella piccola fotografia che Miguel portava sempre nel suo portafogli. Jaime le parlò con una voce sconosciuta e a poco riuscì a tranquillizzarla. La carezzò con gesti teneri e paterni, come quelli che talvolta usava con gli animali, finché la malata non si rilassò e permise che le sollevasse le maniche del vecchio kimono. Apparvero le sue braccia scheletrite e Alba vide che aveva migliaia di piccole cicatrici, lividi e punture, qualcuna infetta e suppurante. Poi le scoprì le gambe, eppure le sue cosce erano torturate. Jaime lo osservò con tristezza, comprendendo in quell'istante l'abbandono, gli anni di miseria, gli amori frustrati e il terribile cammino che quella donna aveva percorso sino ad arrivare al punto di disperazione in cui si trovava. La ricordò com'era in gioventù, quando lo abbagliava scuotendo i suoi capelli, il tintinnio dei suoi bracciali, la sua risata argentina e il suo candore nell'abbracciare idee strambe e inseguire illusioni. Si maledisse per averla lasciata andar via e per tutto quel tempo perduto da entrambi. Bisogna ricoverarla. Solo una cura di disintossicazione potrà salvarla, disse. Soffrirà molto, aggiunse.